Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana e come ricordavano i nostri GR24 siamo in diretta da Trento per il penultimo giorno del Festival dell'Economia, decimo Festival dell'Economia. Modestamente siamo qui dall'inizio, quindi è 10 anni che copriamo il Festival dell'Economia. Sta parlando in questo momento il ministro all'economia Piercarlo Padoan. Alcune delle dichiarazioni che ha reso prima di entrare in sala le abbiamo raccolte, adesso le faremo ascoltare, soprattutto su Grecia e sulle sofferenze bancarie. Per quello che riguarda il resto della giornata ci occuperemo anche noi di regioni, ma non per commentare l'esito della votazione regionale, quanto per commentare quello che oggi ha il Sole 24 Ore in prima pagina, ossia il costo complessivo delle regioni italiane è di 190 miliardi l'anno, il che vuol dire sostanzialmente 3.124 euro pro capite, bambini inclusi, con differenze molto alte sulla spesa pro capite. Anche qui attenzione, perché è chiaro che la spesa pro capite è un indicatore, poi bisogna vedere la qualità dei servizi, lo dico perché siamo a Trento e gli abitanti di Trento hanno una spesa pro capite per quello che riguarda la provincia di Trento, la provincia autonoma di Trento e come le altre province autonome, una spesa pro capite più alta, comunque di 8.000 euro, Bolzano 9.650 euro, la Valle d'Aosta 9.800 euro di spesa pro capite, la Sicilia 4.000, la Sardegna 3.600 e il Friuli Venezia Giulia 5.100. Poi spicca il dato, per esempio, vista anche la qualità dei servizi dell'Emilia Romagna 2.600 o della stessa Lombardia 2.240, la regione più leggera come spesa pro capite, e non è la regione, diciamo, che funzioni peggio a livello italiano, mentre abbiamo regioni dove, insomma, di cui spesso raccontiamo la poca efficienza, che hanno costi molto alti. Non c'è solo la Sicilia, penso anche la Puglia 3.200 euro, Lazio 3.800 euro pro capite, il Molise 4.600 euro pro capite, una cifra altissima, doppia rispetto a quella della Lombardia, per una regione che non penso abbia un'efficienza doppia rispetto a quella della Lombardia. Comunque, di questo parleremo in apertura. Poi, come sempre, i mercati che oggi sono poco mossi, meno 0,10% Milano, praticamente è invariata. Milano con il resto delle borse sostanzialmente in linea, il Dow Jones, ma soprattutto gli altri indici di carattere europeo, penso all'S&P 100 più 0,17% per quello che riguarda l'America, penso allo 0,47% di Parigi come rialzo e lo 0,50% di Francoforte. A Milano bene Tod's più 1,40%, ma soprattutto A2A più 2,30%, Campari più 1,40%, Buzzi Unicem più 1,1%, Luxottica più 1% come Saipem e CNH Industrial, UX e Mediaset, tutte in rialzo dell'1%, compresa Telecom Italia e appunto Luxottica. Fronte opposto invece la Pop Emilia Romagna perde l'1,60%, Prismian meno 1,20%, UbiBanca perde l'1% come Tenaris, Exor meno 0,90% come Snam e Azimut. Euro su dollaro a quota 1,089, quindi stabile sostanzialmente. Il numero per i vostri sms resta 349-238-6666 e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. L'ultima nota di servizio: oggi il programma termina alle 18 perché dalle 18 alle 18.30 avremo uno speciale riassuntivo delle elezioni anche per quello che riguarda i comuni e non solo, quindi le regioni. Allora, rapidamente le altre notizie in breve. Bene, i dati che arrivano dall'America: la spesa per costruzione negli Stati Uniti è cresciuta del 2,2%, è il massimo dal 2012, questo come risposta, tra virgolette, al dato invece di venerdì scorso più deludente sulla crescita del PIL americano. L'indice manifatturiero americano misurato dall'indice ISM sale a quasi 53 punti oltre le attese, quindi questi dati sembrerebbero dire che la battuta d'arresto nella crescita americana è temporanea e momentanea. Per quello che riguarda invece l'Europa, tiene ancora banco la Grecia, tanto per cambiare. Bruxelles ha chiarito che ad Atene non verranno date nuove scadenze, nuovi prestiti. L'unica scadenza è a fine giugno, quando scade l'attuale programma di aiuti. La banca d'affari americana Goldman Sachs, in un report, precisa che forse alla Grecia servirebbe un default tecnico, quindi un fallimento non reale ma tecnico, il mancato pagamento di una rata, di una più rate, e un blocco dei depositi nelle banche greche. Potrebbe essere necessario allo scopo di rompere l'impasse in cui versano i negoziati con i creditori. Più ottimista invece il ministro Padoan, che appunto sta parlando in questo momento dal Festival di Trento, prima di entrare nel convegno di cui è ospite, ha parlato anche di Grecia, lo ha fatto con la nostra Claudia Vanni, che da giorni che gira tutta Trento e tutti gli avvenimenti, gli eventi del Festival dell'Economia, e si è detto il ministro dell'Economia Padoan convinto che a breve arriverà un accordo per la Grecia. Non commento Goldman Sachs, non mi sembra che valga la pena di commentarlo. Ci sono colloqui in corso, sia a livello tecnico, tra i team tecnici del governo greco e delle istituzioni, e ci sono colloqui in corso a livello politico. Io continuo a pensare che ci sarà un accordo presto. E mentre Tsipras ieri aveva dichiarato che se non si arriverà a un accordo sulla Grecia non sarà per colpa dell'intransigenza greca, decidono i leader europei, non le istituzioni, sempre in una lettera, in un intervento sul quotidiano francese Le Monde. E ancora, sempre Tsipras, il clima di incertezza è dovuto ai target, agli obiettivi che ci hanno dato, che sono irrealizzabili. C'è un circolo vizioso, austerità, recessione, occorre mettervi fine. E cioè l'austerità è il fatto che la Grecia debba utilizzare tutto l'avanzo primario per pagare gli interessi sul debito e non per fare ripartire l'economia. L'austerità, secondo Tsipras, genera nuova recessione, e questo è un circolo vizioso, perché nuova recessione significa un calo ulteriore del PIL, un aumento del debito e nuova austerità. E questa è la spirale negativa a cui fa riferimento Tsipras. E poi la decisione non riguarderà solo la Grecia. La Grecia è il primo caso, così sempre Tsipras su Le Monde. Ma in Grecia un nuovo sondaggio di opinione rivela come 6 greci su 10 ritengano che l'accordo che il governo di Atene firmerà con i creditori porterà altre misure di austerità. Veniamo all'Italia, dove il ministro Padoan poco fa, sempre prima di entrare al convegno di cui è ospite, sempre a microfono la nostra Claudia Vanni, ha anticipato che le misure sulle sofferenze bancarie, sui 170 miliardi di crediti che le banche non rivedranno più, arriveranno a breve, a brevissimo, ha detto Padoan. Stiamo lavorando a vari meccanismi per l'aggressione delle sofferenze bancarie. Beh, sono passate da qualche ora, fateci lavorare, stiamo lavorando sulle vari meccanismi di aggressione, diciamo in senso positivo del termine, delle sofferenze bancarie in termini di procedure concorsuali e di tempi di risoluzione dei processi, sia in termini di meccanismi che facilitino la smobilitazione delle sofferenze dai bilanci delle banche. E visto che parliamo del Festival, dal Festival dell'Economia di Trento e anche del Festival dell'Economia di Trento, vi vorrei far riascoltare cosa ha detto ieri Hervé Falciani. Chi è Falciani? Alcuni se lo ricorderanno, è l'ex dipendente della banca d'affari svizzera HSBC, che con la famosa lista Falciani rese nota la lista di 130.000 conti di evasori fiscali. L'America poi fu durissima con la Svizzera, ottenne la lista, i nomi della lista, aveva minacciato sanzioni, un embargo durissimo sulla Svizzera, e poi sulla scia dell'America tutti gli altri paesi hanno fatto accordi con la Svizzera per avere la lista di questi, i nomi di questa lista. Ha presentato Falciani il suo libro La cassaforte degli evasori e ha ricordato come non sia solo la Svizzera la cassaforte degli evasori. Ci sono paesi molto vicini, ha citato Dubai come grandi rifugi degli evasori fiscali. E pensate che la lista di Falciani, solo per quello che riguarda l'Italia, ha permesso di scovare 740 milioni di euro di evasione fiscale depositata nei conti svizzeri della HSBC, e di cui però lo Stato italiano ha recuperato per ora solo 30 milioni. La nostra Claudia Vanni ha chiesto a Falciani se la lotta all'evasione fiscale oggi sia più facile rispetto a qualche anno fa. È più facile agire, però localmente, non più come si è fatto spesso, come con i trattati, no? Spero proprio che si capisce bene che è da casa sua che si può controllare le cose, e che una volta che l'informazione si perde non la possiamo recuperare più. Che idea si è fatto dell'evasione che c'era dietro le sue liste? Di che cifre parliamo? Parliamo della metà del debito pubblico mondiale, che stanno in quelle parti oscure, e quella banca, che è la seconda mondiale, no? Rappresenta bene quella industria. Per dire, su tutti quelli che sono presenti nelle liste non erano conosciuti. Allora, sì, HSBC è una banca inglese, la lista era svizzera, ma non cambia ragionamento. Per quello che riguarda invece l'Europa, ancora due notizie rapidamente, poi andiamo al primo tema, i costi delle nostre regioni. L'indice PMI manifatturiero dell'area euro è salito a 52,2 punti, ma è calato quello della Germania, 51,1, è migliorato sensibilmente quello dell'Italia, ai livelli più alti dal 2011. Il dato di maggio supera le stime, va a 54,8 punti, e il dato supera appunto le attese di mercato. È il quarto mese consecutivo che l'indice che misura l'andamento dell'attività del comparto manifatturiero è sopra la soglia dei 50 punti che distingue tra recessione e espansione economica. Oh, adesso immagino le battute, le polemiche sulla frase che ha pronunciato qui da Trento questa mattina il ministro al lavoro Poletti, spiegando che cioè, sostanzialmente occorre puntare sulla digitalizzazione di qualunque professione, ha detto Poletti, prepariamo degli evangelizzatori sulla digitalizzazione, stiamo formando 3.000 giovani con Google e Union Camere. La frase che ha fatto un po' discutere è quella in cui Poletti citava Mario Limbianchino. Anche Mario Limbianchino, che è un nome chiaramente di fantasia, deve smettere di pensare, anche se ha 57 anni, che la sua vita finisca con l'AP Car, e deve capire che il digitale può essere un'opportunità. Facciamo notare al ministro Poletti, che è assolutamente giusto quello che dice, ma che Mario Limbianchino, se ha 57 anni, forse la sua vita professionale è già finita con l'AP Car, visti i tassi di disoccupazione nel settore dell'edilizia. Comunque, sentiamo Poletti sulla formazione digitale e l'accordo con Google. Il 40% delle imprese italiane interrogate hanno risposto: a noi del digitale non ce ne frega niente perché alla mia impresa non è interessata. Secondo voi è ragionevole questa risposta? No, non è ragionevole. D'altra parte lo capisco l'imbianchino che dice a me il digitale non mi interessa, ma se poi all'imbianchino gli spieghi che con il suo portale può comprare le vernici meglio, può raggiungere un mucchio di clienti che altrimenti non raggiungerebbe, può sentirsi criticato, può raggiungere un architetto che gli spiega che forse i colori si possono fare in un'altra maniera, alla fine potrebbe scoprire che è interessante anche per lui il digitale. Ma se non ci va qualcuno lì che ha quella mentalità a dialogare con lui, questa cosa lui non l'imparerà mai, perché ha 57 anni ed è Mario Limbianchino, e quindi lui ha già pensato che la sua vita è risolta con la Pecar, e non è così. Sarà risolta perché lì dentro c'è un tasso di qualità che noi non immaginiamo, perché un posto di lavoro è un posto di lavoro, ma un'impresa è relazione col mercato, relazione col prodotto, capacità di prendere un rischio, competenze, capacità di innovazione, capacità di adeguamento, cioè una qualità immensamente diversa che va preservata e trasferita. Ad esempio, noi stiamo lavorando ad un progetto insieme a Google, insieme all'Union Camere, per fare in modo che ci siano 3.000 giovani, che io definirei evangelizzatori digitali che vogliamo formare e che manderemo nelle imprese artigiane, piccole e medie italiane a fare questa discussione. E infatti al 349-238-6666 arrivano i messaggi su Mario Limbianchino, molti mi scrivono anche senza l'AP car, a 58 anni sono esodato e senza lavoro, altri chiedono rispetto per Mario Limbianchino che paga le tasse e dà da mangiare al ministro Poletti. Allora attenzione, è chiaro che era un esempio. Poi detto tra noi, forse l'esempio di Mario Limbianchino era un po' ridicolizzante, magari poteva fare l'esempio di un piccolo imprenditore, visto che la risposta del 40% è stata: a noi non interessa la digitalizzazione. È diverso, perché non c'è solo Mario Limbianchino. Detto questo, ha ragione Poletti, e più volte l'abbiamo ricordato, nel sottolineare come la pressione sull'innovazione generatasi con questa crisi resterà per i prossimi 10 anni. Questa non è una crisi, è un cambio strutturale, e quindi l'innovazione la devi fare comunque, qualunque sia la tua attività di impresa, commercio, commercio al dettaglio, ristorazione, manifattura, turismo, non importa, che le pressioni sui margini resisteranno e resteranno. Ha parlato anche di riforma del mercato del lavoro il ministro Poletti, ha detto: non capisco perché i giovani siano delusi, sono aumentati i contratti stabili, è un vero cambiamento radicale, riferendosi al Jobs Act. E poi ha detto: attenzione, nessuno pensa di spremere i lavoratori, un paese che pensa al futuro, che pensa che si possa costruire un futuro spremendo i lavoratori è cretino, perché riduce la ricchezza, i consumi e la produzione. Abbiamo cercato di ridurre la precarietà, che era un vero dramma nazionale. Fino a 3 mesi fa la precarietà e il precariato in questo paese era un dramma nazionale. Adesso vedo dei simpaticoni che, a fronte di 150.000 contratti trasformati, mi dicono: beh, cos'è? Risposta di Poletti: se tu fossi uno di quei 150.000 che ogni 3 mesi gli rinnovavano o non gli rinnovavano il cococò, il cocopro, la chiamata e il resto, te sapresti che differenza fa. E quindi fare queste risposte o dare queste risposte significa non avere un'idea di cosa diavolo succede in questo paese e cosa succede nella vita delle persone e che cosa succede nelle imprese, perché in un'impresa a cui hai consentito di fatto di continuare ad assumere in maniera precaria l'hai rovinata. Perché anziché dirgli: competi in alto, competi sulla qualità, sull'innovazione, sul progetto, sul prodotto, sul rapporto col mercato, gli hai detto: prova a spendere un euro in meno nel lavoro e poi l'anno prossimo prova a spendere un altro euro in meno sul lavoro. Un paese che pensa al futuro spremendo i lavoratori, riducendo il reddito prodotto e distribuito, è un paese cretino, perché è un paese che riduce la sua ricchezza, cala i consumi e cala la produzione. Non ci vuole un Oscar dell'economia per capire questa cosa qui, che è persino banale, ma per rovesciarla bisogna decidere di fare delle robe piuttosto radicali. Noi le abbiamo fatte, e quelle che abbiamo fatte sono lì, e quelle che faremo sono quelle che faremo in coerenza con questo disegno. Allora anche qua, attenzione, l'abbiamo detto in molte occasioni e siamo d'accordo con il ministro Poletti. Cioè, un conto è dire e notare, cosa che abbiamo fatto notare più volte, che non sono aumentati gli occupati e non sono diminuiti i disoccupati. Perché finché non riparte il ciclo economico, l'occupazione non si crea per decreto. Altra cosa, come rivendica Poletti, è far notare che all'interno della torta di chi già lavorava ci sono circa 200.000 tempi indeterminati in più, e quindi ci sono 200.000 cocopro, partite IVA, tempi determinati in meno. La prima riguarda l'andamento dell'occupazione e della disoccupazione, che è ferma, è uguale, sono 7.000 posti in più l'ultimo dato, è uguale a un anno fa. L'altra, la seconda, riguarda la qualità dei contratti. Poletti ha ragione nel rivendicare che a parità di contratti, meglio avere un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti con la maternità, le malattie e l'indennità se viene licenziato, che non avere il cocopro rinnovato ogni 3 mesi o la partita IVA che maschera un rapporto continuativo di lavoro o il tempo determinato. Quello riguarda la qualità dei contratti in essere. Non sono aumentati i contratti perché non è diminuita complessivamente la disoccupazione. Su questo vedo qualcuno scrive: le badanti sono molto digitalizzate. No, guardi, il problema della digitalizzazione è il problema di sapere sfruttare quello che sta capitando. Le badanti non so se siano digitalizzate, però so che hanno un network pazzesco, e quindi probabilmente useranno anche a loro modo il digitale, i loro telefonini. Un altro mi scrive: io riparo affettatrici, offende il ministro, non me ne faccio nulla di digitale. Non so, non ne sono convinto. Secondo me in realtà l'ammodernamento serve a tutti. Magari lei può trovare nuovi clienti, magari può avere un sito, non lo so. Magari se uno scrive e cerca una riparazione di affettatrice attraverso internet può trovare, ma non si può contestare, diciamo, il principio per cui la digitalizzazione serve a tutte le mansioni. Altra cosa, insomma, forse si può contestare l'esempio di Marilyn Bianchino, che ha 57 anni, perché in questo paese la categoria di chi ha 57 anni, tra la Fornero e l'espulsione dal mercato del lavoro fisiologica o dovuta alla crisi, è una categoria messa molto male. Comunque, torniamo alle regioni, visto che siamo in Trentino, che è una delle regioni che costa di più ai contribuenti, vedi i trentini fuori. 8.000 euro pro capite, ottimi servizi in Trentino, ottimi servizi anche in Alto Adige. Bolzano costa 9.650 euro, quindi non è solo la spesa pro capite, è anche il servizio ottenuto. Certo che difficilmente, ripeto, si riescono a giustificare i 2.200 euro pro capite della Lombardia o i 2.600 dell'Emilia Romagna rispetto ai 4.600 del Molise, ai 3.800 del Lazio, e anche ai 3.300 della Calabria, perché è difficile dire che Lombardia e Emilia Romagna siano regioni che offrono meno servizi rispetto a Molise, Calabria e Lazio, così come per i servizi che offre sono tanti, 4.000 euro che costa a ogni siciliano la regione Sicilia. Prima di tutto però un commento che tiene assieme le spese delle regioni con i risultati delle elezioni regionali all'interno dei nostri 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore. Oggi la firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Salvatore Padula. I risultati elettorali sono quindi definitivi, i partiti stanno facendo i conti con l'esito del voto, ma fuori dalla valutazione dell'impatto del voto locale sugli equilibri nazionali, è evidente che per i 7 neogovernatori eletti oggi è arrivato il momento di uscire dalle promesse elettorali e cominciare a confrontarsi con l'agenda delle cose da fare. Ecco, questa è la domanda: quali sono le priorità, le urgenze che i nuovi presidenti delle regioni dovranno affrontare? Naturalmente tutti i neoeletti dovranno vedersela con questioni locali specifiche, si pensa all'Ilva di Taranto per il neopresidente della Puglia Michele Emiliano, oppure alle bonifiche della Terra dei Fuochi per Vincenzo De Luca, o al dissesto del territorio della Liguria andata a Giovanni Toti. Ma oltre alle questioni strettamente locali ci sono urgenze trasversali. La sanità, per esempio, che ricordiamolo vale 2/3 della spesa regionale, oltre 110 miliardi all'anno. Qui il tema è la ripartizione dei tagli per il 2015, quasi 2 miliardi e mezzo di spesa in meno e quindi meno risorse per far funzionare le ASL e gli ospedali. E poi c'è la crisi economica che sta forse allentando la presa, ma che richiede nuove strategie per trovare risposte adeguate, specie sul fronte del lavoro. Ecco, forse è qui che si gioca la sfida decisiva per i 7 governatori neoeletti e in fondo anche per tutti gli altri. La sfida di saper offrire ai territori nuove occasioni di sviluppo e di crescita non più rinviabili. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, quanto costano le regioni italiane, visto che siamo reduci dalle elezioni in sette regioni? Va detto subito, se avete comprato Sole 24 Ore di oggi, che ci apre la prima pagina, Sole 24 Ore lunedì, che il costo complessivo è un costo che, insomma, un po' spaventa, 190 miliardi. Voi sapete che chi conduce questo programma non è mai molto tenero con le regioni italiane, perché invece che avere un federalismo e dei costi standard e poi la responsabilità federale, hanno moltiplicato i centri di costi della spesa. Cioè la tendenza della politica è stata di replicare su base regionale i vizi che già aveva su base nazionale e statale. Detto questo, è più facile paragonare le regioni a statuto ordinario. Lo dico subito, non perché siamo a Trento, ma anche perché siamo a Trento, nel senso che quando si dice che la provincia autonoma di Trento costa 8.000 euro, quella di Bolzano 9.600, quella della Val d'Aosta come regione 9.800 pro capite, la Sicilia 4.000 euro, la Sardegna 3.700 se non ricordo male, beh, stiamo parlando di regioni che hanno, essendo statuto autonomo, anche molte funzioni in più. Più facile il paragone invece tra i 2.200 euro della Lombardia, ripeto, i 2.600 dell'Emilia Romagna, i 2.900 della Toscana, e invece gli inspiegabili 4.600 del Molise, 3.800 del Lazio, 3.300 della Calabria e ancora 3.300 in Puglia. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ho detto qualcosa di sbagliato per ora, nel senso che il paragone è più facile farlo tra le regioni e statuto ordinario, Gianni. Assolutamente sì, perché lì le competenze sono le stesse, sono quelle fissate dalla legge nazionale, e tutti appunto hanno le stesse cose da fare. Ma poi quando si va a vedere i numeri si scopre che queste stesse cose da fare producono numeri di spesa molto diversi, e come accennavi tu, non si intravede un rapporto logico tra la spesa effettiva e il livello dei servizi, nel senso che nelle parti basse della classifica, cioè la regione che in termini pro capite costa meno è la Lombardia, la regione che in termini pro capite costa di più, sempre nell'ambito degli statuti ordinari, è il Molise. Cosa si vede allora? Si vede prima di tutto che c'è un tema di economia di scala, cioè le regioni più piccole costano in termini pro capite di più delle regioni più grandi. Ogni tanto nel dibattito pubblico italiano torna l'idea di ridurre il numero delle regioni accorpandole tra di loro, poi questa cosa si perde. Anche questa regola però non è come dire rigida, perché poi troviamo in seconda posizione il Lazio, che nel bilancio 2015 è peraltro gravato da un disavanzo ereditato dall'anno precedente, che è di 3 miliardi e mezzo di euro circa, e conseguentemente deve finanziare anche questo disavanzo per pareggiare, comunque sia ha dei livelli di spesa più elevati. Poi l'altra cosa è, si diceva delle regioni a statuto autonomo, certamente Trentino Alto Adige, provincia di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Val d'Aosta hanno più funzioni degli altri, c'è da dire che però con livelli di spesa per cittadino vicino ai 10.000 euro hai anche una disponibilità di risorse che nessun altro ha. Assolutamente, torniamo su questo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui da Piazzetta Pasi, Piazza Mario Pasi a Trento, vicino alla Piazza del Duomo di Trento, per il Festival dell'Economia. Focus Economia sarà in diretta anche domani da Trento, sempre dalle 17 alle 18.30. Oggi ci fermiamo alle 18. Non vi dico i messaggi che stanno arrivando su Mario Limbianchino, a mio avviso l'infelice paragone del ministro Poletti, perché Mario Limbianchino, che ha 57 anni, non vuole digitalizzarsi, è un po' facile come esempio. Alcuni vogliono parlare di Ugo l'asfaltatore, penso che si riferiscano a quello che è successo ieri alle regionali in Liguria soprattutto, va bene. Però attenzione, il ragionamento era più complesso e più alto sulla necessità di digitalizzare il paese. Ha ragione chi dice, ho capito, Mario Limbianchino può anche connettersi alla rete, ma se poi viaggia con 56k e non con minimo 3G ci fa poco, diciamo, con quella connessione. Comunque torniamo sulle regioni. Gianni Trovati, Allora, mi spieghi come mai Molise costa il doppio, più del doppio rispetto, pro capite, rispetto alla Lombardia e l'Emilia Romagna, ma anche la Calabria costa quasi 1.000 euro in più pro capite rispetto alla Lombardia, ai calabresi? Sì, la spesa delle regioni è soprattutto spesa corrente, gli investimenti sono pochissimi ed è sulla spesa corrente che quindi vanno cercate le ragioni per le quali Molise, Lazio e le regioni che citavi sono in testa alla classifica della spesa. La spesa corrente delle regioni va divisa in due grandi capitoli. Il primo è la sanità, 110 miliardi all'anno, e il secondo è, diciamo così, il resto del mondo. In questo resto del mondo, prima voce di spesa è il trasporto pubblico regionale e secondo è quello del costo del personale, della macchina amministrativa e così via. Quindi le cause sono sostanzialmente due: da un lato una dinamica della spesa sanitaria che è molto diversa regione per regione, lo abbiamo visto in ogni tipo di analisi, spesso nel rapporto fra spese e cittadini i valori più alti si incontrano dove i servizi sono più in difficoltà. Mentre appunto Lombardia, Veneto e così via sono nelle parti basse della classifica. È un paradosso, perché due volte bastonato il cittadino paga più di spese regionali e ha servizi peggiori. Per concludere, visto che ci ha appena raggiunto il coordinatore scientifico, nonché en passant anche neopresidente dell'INPS, Tito Boeri, mi dici qualcosa anche sulle regioni a statuto autonomo, perché noi non facciamo sconto a nessuno, hai detto bene. Offrono altri servizi, quindi non si possono paragonare i 9.600 euro di Bolzano pro capite o gli 8.000 di Trento con il Molise Basilicata, però pure lì non costano poco ai cittadini. No, infatti siamo intorno ai 9.800 euro pro capite per le regioni con i valori più alti, che sono Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano. Naturalmente quelle sono tutte cose pagate dal territorio, nel senso che lì le tasse per i 9 decimi, anche le tasse erariali, quindi l'IRPEF nazionale, l'IVA e così via, rimangono sul territorio. Qual è il problema? Che c'è una disponibilità di risorse molto più elevata rispetto ai territori ordinari, che produce anche spese più elevate sia sui servizi ma anche sui costi amministrativi, sui costi della politica e così via. Allora, grazie intanto a Gianni Trovati, che appunto è leggete solo 24 ore di oggi se ancora non l'avete fatto, perché la mappa è molto complessa. Vorrei appunto, come già anticipavo, cambiare tema, poi vi darò la borsa io e occuparmi in primo luogo di queste, del tema complessivo del decimo festival dell'economia e quindi la mobilità sociale, che è un tema che può sembrare alto ma in realtà riguarda poi tutti noi, e capire qualcos'altro anche sui dati dell'occupazione. E quindi 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, grazie a Tito Boeri, appunto presidente dell'INPS, ma visto che noi siamo qua dall'inizio, 10 anni, invecchiamo rapidamente, anche coordinatore scientifico e uno degli autori del Festival d'Economia. Buonasera intanto, Boeri. Buonasera a tutti voi. Eccoci. Allora, poi arriviamo a alcuni dati dell'INPS, poi noi non vogliamo rubare quello che sono le anticipazioni che fate e quant'altro, però restiamo sul tema un secondo ancora della mobilità sociale, perché le chiedo di farci la summa di quanto uscito, sta parlando appena finito forse il ministro Padoan, abbiamo ascoltato per quello che riguarda la cronaca Grecia piuttosto che sofferenze bancarie le ultime dichiarazioni. Che cosa è emerso, se lei dovesse dare una sintesi, in queste giornate in cui avete discusso di un tema che può sembrare molto alto, molto da accademia classica, in realtà riguarda proprio poi il Jobs Act, la riforma del mercato del lavoro, come si rompono i vincoli anche nella pubblica amministrazione, come si va a un criterio di scelta molto contestato sui prestiti, che vuol dire responsabilizzazione, cioè come torna un paese a far sì che se tu nasci figlio dell'imbianchino che citava Poletti non fai necessariamente l'imbianchino tutta la vita, e se nasci figlio, diciamo, del grande manager non in automatico diventerai manager tutta la vita. Boeri. Beh, innanzitutto il festival non è ancora finito, ci sono ancora delle lezioni importanti, come tra cui per esempio Steve Jenkins, che è uno dei più grandi esperti di mobilità nei redditi, e poi domani ci sarà Krugman e tanti altri bravissimi economisti e sociologi e storici, perché ce ne sono stati molti. Ma fare una sintesi non è facile. Certamente si è discusso Innanzitutto credo un punto fermo è che credo quasi tutti abbiano detto che non c'è niente di inevitabile nell'immobilità sociale o nella disuguaglianza delle opportunità. Cioè i paesi, i governi nazionali e in parte le istituzioni sovranazionali possono fare molto per aumentare l'uguaglianza delle opportunità. E su cosa fare, chiaramente le opinioni sono diverse, ma penso che si possa dire che da una parte ci sono quelli che hanno parlato più di aspetti di politica macroeconomica, anche adesso all'incontro col ministro Padoan si parlava di come l'Europa può evitare che si creino delle disparità così forti tra stati. Adesso la disoccupazione in Europa non è mai stata così tanto diversa, così varia, diciamo. così dispersa, e questo è chiaramente insostenibile. E quindi qui c'è bisogno di avere delle forme di stabilizzazione, dei fondi tra stati che redistribuiscano quando dei paesi subiscono degli shock molto forti. E poi c'è moltissimo però da fare sul piano più micro, e qui discorsi sul sistema educativo fondamentali, sul ruolo della famiglia, ma anche, e questo è un aspetto credo molto importante di questo festival, molte riflessioni sul tema della casa, proprio della segregazione abitativa. Qui gli studi negli Stati Uniti sono davvero molto importanti. Gli Stati Uniti hanno fatto dei programmi su scala molto piccola che però hanno dato dei risultati importanti, per esempio i programmi che chiamano Moving to Opportunity, in cui davano la possibilità a persone che magari venivano da minoranze etniche di spostarsi all'interno della città in zone dove c'è più dispersione etnica, dove non c'è una concentrazione soltanto di persone che vengono da una certa etnia, e questo ha grandemente migliorato le opportunità di queste famiglie. Allora, diceva lei prima che in effetti il tema della mobilità sociale è un tema in cui la politica può fare molto, cioè la mobilità sociale paradossalmente si può creare per decreto, nel senso che il governo può fare molto per rendere accessibili le università, rendere il merito l'elemento unico di scelta e non solo, diciamo, il censo e le conoscenze. All'opposto, noi sappiamo, diciamo sempre, che per decreto non si può creare occupazione. Di questo però vorrei parlare dopo il traffico, nell'ultima parte, perché lei ha annunciato che comunque vi sarà un provvedimento anche dell'INPS a sostegno dei 55-65 anni, ma vorrei capire anche che cosa vedete dei vostri dati. Voi li fornite, li fornisce il Ministero del Lavoro, li fornite voi per la parte vostra, e poi c'è l'Istat che ci dà il definitivo. Dopo il traffico, 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia in diretta da Trento. Allora, Tito Boeri, veniamo un attimo al rapporto INPS, più 320.000 rapporti di lavoro. Non voglio leggere tutti i dati perché li commentiamo ogni giorno. Boom di tempo indeterminato. Due domande rapidissime. La prima, possiamo dire che siamo ancora in una fase in cui sta migliorando la qualità dei contratti, cioè sono più i tempi determinati, indeterminati rispetto ai Coco Pro, ai tempi determinati, le partite IVA mascherate, ma non sta ancora ripartendo, diciamo, il mercato del lavoro. Seconda domanda, che cosa e quando fornirete una risposta ai 55-65 anni? Mario Limbianchino sta scatenando la rete, prego. Ma sul mercato del lavoro l'INPS dà delle informazioni che sono basate sul fatto che noi raccogliamo i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, quindi riusciamo a monitorare quello che accade lì, e abbiamo migliorato, credo, proprio la rendicontazione, il monitoraggio di questi contratti, e quello che viene fuori è che c'è stato un incremento molto forte della quota di assunzioni con dei contratti a tempo indeterminato. Questo io penso sia un fatto positivo, perché vuol dire c'è maggiore stabilizzazione. I dati di cui disponiamo però non ci dicono che cosa sta accadendo all'insieme dell'occupazione, perché non copriamo per esempio il lavoro autonomo, copriamo solo in parte l'impiego pubblico. Ecco, per avere informazioni su questo bisogna guardare le cifre, i dati dell'Istat e soprattutto quelle trimestrali, perché i dati mensili sono su campioni più piccoli, e ultimamente devo dire le variazioni sono talmente piccole da dire è stabile fondamentalmente. Vedremo a giorni, escono i dati trimestrali, certo, sul primo trimestre, quindi lì avremo delle informazioni più precise. Sulle proposte Tra l'altro colgo l'occasione per dire che faremo invece noi, daremo più attenzione alla questione vouchers, perché ci siamo resi conto che sta aumentando tantissimo questo fenomeno, vogliamo capirci di più. C'è un po' il rischio che lì dentro ci siano, invece che avere proprio lavori accessori, aggiuntivi ad altri, l'unica forma di lavoro per molte persone. Questo potrebbe essere un problema. Chiuso il capitolo lavoro, invece parliamo delle proposte che noi faremo, ci siamo impegnati a presentarle entro il mese di giugno. La filosofia è quella di intervenire sul problema della povertà, che è un problema molto serio, tra l'altro legatissimo ai temi del festival, perché è vero, parlavamo di scuola prima, di altre cose, però se le distanze diventano troppo grandi non ci sono istituzioni che tengano, non c'è l'istruzione, certo, non c'è niente. Bisogna impedire che le distanze diventino troppo grandi, e per farlo bisogna avere degli strumenti che impediscano alle persone di finire in condizioni di povertà. Ma come lei pensa a un assegno? Io penso per esempio a delle forme tipo un reddito minimo, per cominciare a inserirlo. Torneremo per a parlarne, alcune. Ma in una battuta, io quando studiavo economia, poi non lo faccio più da molti anni come si sente in onda, però ci veniva detto, attenzione, gli assegni di disoccupazione, gli assegni diciamo di povertà, hanno un effetto di ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro, cioè che uno dice ok, con quei soldi un po' ci campo, un po' di nero, non rischiamo l'effetto boomerang, che poi uno resti con l'assegno di sussistenza e un po' di nero e invischiamo ancora di più il mercato del lavoro. Allora, chiarisco subito che le proposte che noi formuleremo riguarderanno solo le persone con più di 55 anni e noi vogliamo introdurre questo sistema dai 55 anni in su. Per queste persone il problema per me non si pone, perché se lei perde il lavoro oggi a più di 55 anni lei non lo trova, questo glielo dico, i dati ce lo dicono, solo uno su 10 riesce a trovarlo, quindi non è che dando, tra l'altro un modesto aiuto, purtroppo non ci si può permettere molto, ma un modesto aiuto a queste persone, il rischio che poi queste si impigriscano, che non si mettono a cercare lavoro. Il ragionamento riguardava più i giovani. Sui giovani è un altro discorso. Sui giovani bisogna avere delle politiche attive, bisogna stimolarli, bisogna esercitare quella che si chiama condizionalità. Lì ci vuole un'infrastruttura in grado di fare queste cose, che oggi in Italia non c'è. Non c'è. Però dai 55 in su è una cosa che noi possiamo gestire, tra l'altro con le forze dell'INPS. Dell'INPS che avete. E quindi aspettiamo a questo punto cosa? Giugno? Fine giugno? Entro il mese di giugno. Poi chiaramente ci diranno come presentarlo. La proposta l'abbiamo, ci stiamo lavorando tantissimo e quindi riusciremo ad averla pronta, poi la presenteremo al governo e discuteremo anche le modalità poi di renderle pubbliche con loro ovviamente. Allora, grazie anche al presidente dell'INPS e nonché coordinatore scientifico del Festival d'Economia di Trento, Tito Boeri. Grazie a voi. Allora, rapidamente, non posso fare commento alla borsa oggi, ma vi assicuro che non vi siete persi niente, meno 0,26%, giornata da ponte oggi in Italia, i migliori titoli: A2A più 2,30%, Campari più 1,50%, TOZ più 1,20%, Telecom più 1,1% come Jux, CNH Industrial, Monte dei Paschi più 0,90% come Luxottica e Buzzi Unicem, fronte opposto Pop Emilia Romagna meno 1,80%, Prismi al meno 1,20% come Snam, Ubibanca meno 1,1%, Tenaris meno 1%, Terna meno 0,90%, migliore in assoluto Visibilia più 38%, peggiore in assoluto, eccolo qua, TAS meno 4,70%. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, vi lascio al nostro GR24 e allo speciale di Radio 24 sulle votazioni regionali, noi torniamo domani da Trento dalle 17. Radio 24, la passione si sente.